Friuli nel mondo. Messaggio degli orfani ai lontani. 19ª trasmissione dedicata agli emigrati. Nello spazio di 30 anni hanno lasciato 30.000 orfani nelle province di Udine e di Gorizia, oltre il 3% della popolazione. Provatissimo il Friuli sotto questo aspetto, a parte il primato che detiene in morti e indecorati al valore nei confronti delle altre regioni italiane. Vi è che il Friuli ha conosciuto troppo spesso il brivido delle invasioni, in media una ogni 50 anni, e ha sopportato per primo l'urto degli eserciti che ne violavano i confini indifesi. Il Friuli ha dato in ogni secolo fior di combattenti forti e fedeli. Si spiega pertanto l'elevato numero degli orfani accolti in improvvidi istituti, a Udine, a Gorizia, a Pordenone, a Cividale, a Gradisca di Sonzo, a Tolmezzo e altrove, dove ricevono la necessaria assistenza. Lo Stato da una parte, la Regione dall'altra, spendono annualmente centinaia di milioni per avviarli a una esistenza decorosa, sia attraverso le scuole, sia attraverso le officine. Nella cultura impartita non è trascurata la musica. Le note squillanti che ascoltate sono state registrate in un paese in festa per l'arrivo degli orfanelli del Tomadini. L'orfanotrofio prende nome dal canonico Francesco Tomadini, un eroe della carità, che nel 1836 raccolse gli orfani dopo un'epidemia di colera. Ogni domenica la scena si ripete in luoghi diversi che in gara di fraternità ospitano 100 e più ragazzi. Corriera dell'Amicizia è battezzato il pullman che li trasporta da Udine alla meta fissata. Appena giunti, i ragazzi assistono alla messa tra due ali di popolo commosso. Poi vengono letteralmente contesi dalle famiglie che si accingono a colmarli di buoni cibi e di carezze. Contatti che danno sempre frutti di bene. Signor direttore, un warfing, anche a te, eh? Lo hai al notare? No, signor direttore, perciò che io... Parso regole, non vuoi mai inglese? Non l'importa, saldoi lo stesso. Nella casa di Tite l'orfano è capotavola, al posto d'onore, se non che mentre tutti siedono lui rimane in piedi e si guarda intorno, confuso. Sinte, mangi fruttin! Ma il ragazzo appare ancor più impacciato, poi di scatto solleva la destra alla fronte come ogni giorno prima dei pasti e fa il segno della croce. Tutti lo fissano, si guardano, si alzano imitandone il gesto, Tite compreso, che esclama: Orpo, c'è che mi tace. Nel pomeriggio concerto in piazza con esibizioni folcloristiche. Ad ogni commiato un delirio, abbracci conditi di lacrime di tenerezza, evviva, promesse di ritrovarsi, di scriversi, incipienti amicizie come annunzia il cartiglio vistosamente stampato sulla corriera. Mandi, via di sta bon, grazie di tutto tornerai. Arriviamoci, che signor scriverai. Sta brava. Quella che torta, eh? buona di far bravo. Mandi grazie di tutti. E vi trattate tan bene. Mandi di dì, voglio in vedi un'altra. La primavera ride intorno al collegio friulano Fanciulli Mutilati di Butrio, ospitato in una villa gentilizia alla quale sono affiancati edifici che costarono oltre 200 milioni. Vi convivono 125 mutilatini e figli di grandi invalidi di guerra provenienti da ogni contrada della penisola dove passò la rovinosa bufera. Un piccolo romagnolo è l'unico superstite e mutilato per giunta della propria famiglia perita in un bombardamento. Si comprende pertanto come queste creature rivivano la sommessa dolcezza dei due orfani di Giovanni Pascoli. Fratello, ti do noia ora se parlo? Parla, non posso prender sonno. Io sento rodere appena. Sarà forse un tarlo. Fratello, l'hai sentito ora un lamento lungo nel buio? Sarà forse un cane. C'è gente all'uscio. Sarà forse il vento. Odi due voci, piane, piane, piane. Forse è la pioggia che viene giù bel bello. Senti quei tocchi. Sono le campane. Suonano morto. Suonano martello. Forse. Ho paura. Anch'io. Credo che tuoni. Come faremo? Non lo so, fratello. Stammi vicino. Stiamo in pace, buoni. Io parlo ancora, se tu sei contento. Ricordi quando per la serratura veniva lume? Ed ora il lume è spento. Anche a quei tempi non si aveva paura. Sì, ma non tanta. Ora nulla ci conforta e siamo soli nella notte oscura. Essere là, di là di quella porta, e se ne udiva un mormorio fugace, di quando in quando. Ed or la mamma è morta. Ricordi, allora non si stava in pace tanto tra noi. Noi siamo ora più buoni. Ora che non c'è più chi si compiace di noi. Che non c'è più che ti perdono.